America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. L'America ha sfoggiato un attacco economico, direi concentrico, contro Pechino, ma diciamo nel senso più provocatorio che concreto del termine. Un modo come un altro, potremmo dire, per dare il benvenuto al presidente cinese Hu Jintao, che arriva la settimana prossima a Washington per una visita di Stato. Il 19 gennaio ci sarà quella sera anche una cena. Confronto a distanza dunque, due interventi, quello di ieri del segretario al commercio Gary Locke, quello di avantieri del segretario al tesoro Tim Geithner. Geithner ha parlato di finanza, ha parlato di yuan, ha attaccato la Cina perché non lascia che lo yuan sia scambiato liberamente, mentre Locke ieri ha parlato di commercio, di esportazioni e ha criticato, ha attaccato la lentezza con cui la Cina adegua l'apertura dei suoi mercati a quella naturale che vorrebbero le aziende americane. In each of our families there's a story of sacrifice and strength and perseverance. In the late 1890s my grandfather left his home and friends in China and came to America and worked as a houseboy in Olympia, Washington. In exchange for English lessons. La polemica, possiamo dire, o comunque il dialogo a distanza fra Cina e Stati Uniti continuerà oggi. Ci sarà un discorso del segretario di Stato Hillary Clinton interamente dedicato alla politica estera degli Stati Uniti nei confronti della Cina. Vediamo cosa ha detto il segretario Gary Locke. Ha ricordato come ci siano stati enormi progressi nei rapporti con la Cina sul piano commerciale, ha menzionato l'accordo con la Huaneng. Dunque sappiamo qual è l'intensità del rapporto economico fra Cina e Stati Uniti. Dopodiché, Locke ha lanciato l'affondo. C'è anche un aspetto più sobrio nelle nostre relazioni commerciali, ha detto. Per ogni storia come quella di Boeing o di Duke ce ne sono molte altre che non vengono mai scritte, e quindi si è lamentato del fatto che continuano ad esserci violazioni della proprietà intellettuale, continuano ad esserci enormi difficoltà per certe esportazioni americane in Cina, e dunque auspica che possa davvero esserci un importante passo in avanti. Proprio ieri abbiamo avuto anche dei risultati sul fronte commerciale, quindi l'America può lamentarsi poi fino a un certo punto. Secondo me questa retorica un po' concentrica di attacchi contro la Cina perché non si liberalizza abbastanza in fretta sono, dicevo, più retorici che altro, perché poi alla fine gli Stati Uniti hanno migliorato ieri la loro posizione commerciale nei confronti della Cina, sono riusciti a esportare ben 9,5 miliardi di dollari in novembre, che è un aumento dell'1,9% rispetto al mese precedente. È chiaro che la Cina continua a esportare enormemente in America, ha esportato 35,12 miliardi di dollari solo in novembre, un record, e dunque il disavanzo, o meglio l'avanzo commerciale, resta sempre a favore della Cina con 25,63 miliardi di dollari, un aumento ancora dello 0,5%. Un certo ottimismo anche sul fronte economico americano. Il Wall Street Journal ha pubblicato un sondaggio secondo cui una cinquantina di economisti mediamente ritengono che l'economia crescerà a un ritmo del 3,2% medio nel corso del 2011, ottimista anche Ben Bernanke, il governatore della Fed. Secondo lui l'economia crescerà fra il 3-4%, l'elemento chiave, ha detto Bernanke, sarà però la ripresa delle piccole e medie aziende. Ma è chiaro che il dialogo chiave sarà quello fra il presidente Barack Obama e il presidente cinese Hu Jintao, e io credo che davvero questo incontro della settimana prossima ci porterà qualche sorpresa e avrà sicuramente una connotazione storica per quelli che sono gli equilibri economici globali. Ricordiamolo, ve l'ho detto qualche giorno fa, la Cina supererà l'economia americana nel 2019. Il giorno dopo il discorso del presidente Barack Obama, il giorno dopo l'intervento di Sarah Palin, un intervento duro, deciso, un po' a gamba tesa, da una parte un discorso per il dialogo, quello di Barack Obama, dall'altra un discorso più per il confronto, quello di Sarah Palin, che non ha ceduto da nessun punto di vista in quello che è stato un dibattito piuttosto acceso che ha seguito il tragico attentato di sabato. Qualcuno dice che la Palin è emersa come una donna vendicativa, ha provocato le comunità ebraiche con questo suo riferimento al libello di sangue. Perché la Palin si è buttata in questa spirale? Ai microfoni di America 24 c'è Maurizio Molinari, corrispondente della stampa dagli Stati Uniti. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Eccoci, Maurizio, hai seguito ovviamente la dinamica di questi discorsi. Prova a darci una risposta. Perché secondo te Sarah Palin si è andata a invischiare in questa spirale? Perché Sarah Palin era in difficoltà. La strage di Tucson l'ha messa con le spalle al muro, in quanto le polemiche elettorali che l'avevano opposta a Gabrielle Gifford, la deputata vittima del killer, il fatto che c'erano stati degli scambi indiretti di accusa, il fatto che sul sito internet di Sarah Palin era apparsa una mappa dei collegi da conquistare con la posizione del simbolo di un mirino sull'Arizona in riferimento proprio al collegio della Gifford, tutto questo ha creato una situazione di tensione obbligando Sarah Palin ad andare al contrattacco. Se avesse taciuto avrebbe accettato di subire un vento politico negativo in un momento di grande emozione nazionale. Da lì la scelta di andare al contrattacco con un messaggio video che però è stato scelto con un timing trasformatosi in un boomerang per via del tono molto aggressivo e della sovrapposizione con il messaggio presidenziale che è stato invece da parte di Obama di pacificazione nazionale. Ecco, chiaramente la Palin ha pensato che un gioco al rilancio le avrebbe dato delle chance con la sua base politica. È chiaro che si è rivolta soprattutto alla sua base politica, non è stato un abbraccio al resto del paese, e quindi ha giocato molto duro. Secondo te avrà ragione oppure si è davvero in qualche modo giocata la chance per la Casa Bianca del 2012 o comunque per emergere come il candidato di punta? Sul fatto che il messaggio video, peraltro come tu ricordavi, al centro di polemiche a causa della espressione libello di sangue, possa essergli utile per uscire dall'angolo, sembra in questo momento molto difficile. Non a caso vale la pena sottolineare che le voci più in vista, importanti, del firmamento conservatore hanno plaudito all'approccio di Obama, ignorando completamente lei. Tutto questo indebolisce molto Sarah Palin e in fin dei conti, diciamo la verità, questo fa comodo anche a un partito repubblicano tradizionale nelle sue espressioni di leadership di Washington, che aveva vissuto con qualche insofferenza l'eccesso di attivismo durante l'ultima campagna elettorale dell'ex governatrice dell'Alaska. Ecco, dunque il dialogo, la tolleranza in qualche modo hanno prevalso sul confronto e sul diritto ad esprimersi anche in termini piuttosto crudi. Parliamo un momento del livello di sangue. Vuoi raccontarci, Maurizio, che cosa significa davvero? Vogliamo spiegare l'origine di questo termine? Il termine libello di sangue nasce a fine 800 da episodi separati avvenuti a Damasco, in Siria, e in Russia e in Ucraina, nei territori della loro impero zarista, dove sacerdoti cristiani di differenti fedi e chiese imputarono alle locali comunità ebraiche di aver sacrificato bambini cristiani per ottenere il sangue e confezionare le azime, il tradizionale cibo degli ebrei durante la festa di Pesach, la Pasqua ebraica. È quindi passato per gli storici questo termine come il riferimento all'infamia più grande, la bugia più palese, l'incitazione alla violenza più feroce. Richiamare questo termine in una cornice di dibattito politico americano ha fatto percepire a personaggi come Abe Foxman, il leader dell'Anti-Defamation League, un accenno di revisionismo storico che è stato puntualmente condannato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Il 22 febbraio uscirà Seeds on Hard Ground, un libro di poesie del leggendario cantautore americano Tom Waits. I ricavi di questo libro saranno devoluti in beneficenza ad alcune associazioni benefiche californiane. Di Tom Waits ascoltiamo Old Shoes. Every time that I try to tell you that we lost the magic we had at the start, I would weep my horn when I looked in your eyes. And I search once again for the spark. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.